Friuli nel mondo, 249esima trasmissione dedicata agli immigrati. Oggi, cari immigrati, vogliamo dedicare questa trasmissione ai vostri figlioli, perché coincide con l'arrivo in Friuli di circa 160 giovanetti provenienti dai vari paesi di immigrazione europea, per trascorrere un mese di vacanze nella terra dei padri, che alcuni non avranno forse avuto modo ancora di conoscere. È la prima iniziativa del genere che viene realizzata, accogliendo le vostre richieste, amici emigrati, nonché le sollecitazioni dell'Ente Friuli nel Mondo e di altre istituzioni e associazioni che si interessano dei problemi degli emigrati. È doveroso sottolineare che l'attesa attuazione la si deve all'Ente Nazionale per Lavoratori Emigrati, e ci auguriamo che l'intendimento degli organizzatori possa conseguire i risultati voluti in maniera che in futuro i partecipanti alle vacanze nella nostra regione siano ancora più numerosi. Ad essi comunque il benvenuto più affettuoso e a voi, cari giovani in ascolto, l'augurio fervidissimo che possiate voi pure nei prossimi anni trascorrere sereni e gioiosi soggiorni in Friuli, che a voi adesso si presenta in questa lirica esaltante le sue bellezze naturali e la sua gente. Friuli. O Friuli, dalle pianure ampie, dai piccoli colli di verde chiaro e scuro, dai paesi con le straducole cintate dal muro, dai filari di uva lucente, dai filari di freschi gelsi. Friuli, dalle montagne rotonde, dai monti coi picchi eccelsi, dai campanili tutti uguali e tutti diversi per ogni paese. Friuli, dall'Adriatico largo come un sospiro di cuore, dall'Adriatico chiaro come uno sguardo d'amore. I tuoi paesi sono belli, dalla Mauri al Predil, dall'Usnizza a Lignano. Ecco il villaggio montano, dai tetti di legno spioventi, dai balconi di gerani fiorenti, dalle strade con le staccionate. Ecco il paese di mare, con la sua chiesa moderna, con le sue villette chiare. Ecco Santa Margherita con le strade sinuose di salite e discese nere e abbaglianti nell'ombra dei boschi nel sole d'estate. Questo è il mio paese, nuovo ad ogni mese, il Friuli degli uomini seri, dai vecchi pensosi e severi, dalle donne liete e cantanti. Il mio paese che ora mi viene incontro coi suoi colori e coi suoi canti, con il suo frumento cresciuto nell'ansia dei contadini, con l'aulente pece dei neri pini, con il salso del chiaro mare. La mia terra che mi viene incontro anche quando sono lontano, che mi fa ridere quando la vedo e mi fa piangere quando la bramo. Il Friuli mio che mi canta alle orecchie nell'assordante inno delle piante e mi danza negli occhi nella ridda di tante visioni. Sì. Quanti dei nostri scrittori e poeti hanno cantato le bellezze e i valori di questa piccola terra baciata dal mare, poggiata sui monti, ai vasti orizzonti la libera fronte levata, o terra cui l'ombra dei giuli del fiero suo fascino ammalia, o piccola Italia, che è in memore un nome, Friuli. La riassunta così Giuseppe Ellero in pochi versi. Ma ascoltiamo qualche altra voce e cominciamo con Fevele il Friul. Se tu vussave al dal mio passato, va, riven a Quilè, a Cividà, a Udin, a Glemone, po' a Vencion, che ai barbars al siarà puarte e porton. Il valor da me int se il cur la mov, un sol non bastares, il non di Osov, partasè d'ogni cret, che in chiarnie fur, l'alpigno benedet la tignu dur, rivant alla vittoria più felice di tirà d'ogni il cur sante gurizze. C'è che fasi miei fis al di uè, tu bramis di cognosi, di savè. Chiale i miei chiams, e chiale i miei camins, i mertiaz cu li stradis e i mulins, chiale cemut che a torci dan li smans, da bras lavoradors, i miei furlans. Po domande al soreli in cillus int, se mior int lui al viot da la me int. Due figure altamente benemerite nel mondo della cultura e della tradizione friulana vogliono dirvi ora la loro affettuosa dedizione al Friuli. Ercole Carletti e Giovanni Lorenzoni. Il primo con Friul Lontan, il secondo con I Montagne. Lis montagni sin corone, biel turchinis di color, e la neve de montianine che sozzere e fa splendor, e partant calcori il voli, quand che il cil alle plui clar, prazze chiams, paesuzze gravis, e il barlum lontan dal mar. Dome un reful di chelaier, nus dares qualchi solef, dome il sal des nestri sagis, studares la nestre set. Dome un rai di quel soreli, scialdares i nestri sues, dome il chian di un ecisile, torna zovins, nus fares. Franchi il pass, il cur in fieste, o voi su sempre pin alt, dal valon fin sulla creste, ve, mi par cal sedi un salt. Ogni tant une vilote mi rinfrance il pass e il cur, legre ai monts o doi la note, lor medan legre in daur. Le un piezut zacche chiamini, e sparit le l'ultim troi, su pai crez o mi rimpini, fer il pass attenzi voi. El soreli al mi compagne e al mi busse cun ardor, e da cime de montagne rit la nef tal so blancor. Soi rivat, soi sulla creste, pas e luz intor di me. al mi batti il cuore in fieste e mi par di sé di un re. E da cime de montagne la calregna il chiavriul, slunghi i braz, viars la campagne e saludi il mio Friul. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.